Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Meloc. Il piacere del dubbio. Gianluca Nicoletti. L'audio è brevissimo, ma abbastanza eloquente, molto più chiaro e didascalico. È il video con campo e controcampo fatto dagli studenti dell'istituto di Teggiano, nel Salernitano, che hanno filmato da due punti di ripresa e hanno diffuso naturalmente subito nei social, creando un caso, il professore che prendeva a sganassoni un loro compagno perché indossava male la mascherina. Il professore dice: sbagli tu e sbaglio anch'io. Sì, certo, con la lieve differenza che quel professore adesso passerà naturalmente nei guai. È logico, all'insegna del diritto, della nuova sensibilità, delle norme legislative correnti, un professore non può prendere a schiaffi un ragazzo. Se lo fa, lo fa a suo rischio e pericolo, considerato il fatto che, per quanto se ne dica, per quanto ci sia distanziamento sociale, banchi a rotelle, scaglionati in maniera che gli studenti stiano a distanza, sono stati tutti velocissimi e anche bravi a fare questo video, che è inequivocabile. Perché? Perché è preso proprio da due punti di ripresa, poi è stato montato, due l'hanno preso, uno da una parte, campo e controcampo, e si vede chiaramente il professore che lo prende per la collottola e gli allenta, per tenerlo fermo, e gli allenta lo sganassone. Non vorrei essere nei panni del professore in questo momento. La scuola già ha i suoi problemi e dovrà dare un esempio, qualcosa di significativo per tutti, e verso questo professore ha dato uno schiaffo. Detto questo, come commentate voi questo episodio? Dipende dalla generazione a cui appartenete. Se avete meno di 40 anni vi renderete conto quanto questo gesto sia abominevole, sia un abuso dei limiti che ha l'autorità di un professore, sia una caduta totale, sia una perdita di quel controllo che deve avere comunque un insegnante, per quanto possa essere alto il livello di provocazione degli studenti. Chi invece ha un'età un pochino più indietro nel tempo e appartiene ad altre generazioni, non dico la mia, che sono un ragazzo degli anni 50, ricorderà che in realtà attraverso le maglie larghe della tolleranza, questi sistemi coercitivi di correzione nei confronti degli studenti erano abbastanza frequenti. Noi spesso abbiamo toccato questo argomento e ne abbiamo parlato nelle nostre trasmissioni. Oggi vorrei però ricollocare in maniera antologica quello che è il ricordo del passato riguardo questi sistemi. Avete nella vostra memoria scolastica remota episodi di professori, professoresse o insegnanti di qualunque tipo maneschi? E quali erano i metodi e le tecniche di pestaggio e di inflessione di pene corporali negli studenti? Io vi posso dare il mio contributo. Io questi ricordi li ho alla scuola elementare rurale che frequentai dal 59 al 65. C'era una maestra particolarmente cruenta, si sapeva benissimo che aveva una canna per colpire in testa gli alunni, quindi stare nelle prime file era naturalmente considerato esporsi maggiormente alle cannate in testa. Aveva dei sistemi di repressione molto, molto violenti, anche scientifici. Ricordo c'era un gabinetto alla turca, ricordo ancora nei primi anni delle elementari, doveva insegnare agli studenti di lasciare in maniera decente questo gabinetto. E c'era un capoclasse addetto a indicare i lordatori, quindi ogni volta che entrava qualcuno in quel gabinetto alla turca orribile, ma oggi nemmeno nelle più tristi galere dello Stato ci sta qualcosa del genere, e entrava a guardare e controllare. Ricordo una volta la colpevole della lordatura fu una ragazzina deliziosa, si chiamava Oriana, ancora me la ricordo, bionda, con le trecce, carina, con il grembiule bianco. E ricordo qual era la punizione per il lordatore: la maestra, con tutta la classe assiepata alle sue spalle, la prendeva per la testina e le portava il nasino proprio in prossimità della lordatura. E ricordo ancora questa scena, Oriana tutta rossa, con quelle treccine, quel grembiule candido, tutti noi a guardare sadicamente, contenti che toccasse lei, non a noi, e la maestra l'inzuppava, non arrivava proprio all'inzuppamento, ma la portava in prossimità della lordatura, il suo visino gentile. Anno 1961, ricordo ancora, perché facciamo le bandierine per il centenario dell'Unità d'Italia. 800240024, Devio, buongiorno. Buongiorno, io sono un settantenne e più o meno mi riferisco al periodo proprio 60-61. Io ero in collegio, non un collegio per ricchi, e c'era una suora che aveva una riga, quelle di legno, quelle per fare il disegno tecnico, lungo una sessantina di centimetri. Conosco esattamente il tipo di azione si può fare con quella riga. Sì. E con quella ci picchiava, però diciamo che picchiava giustamente, cioè quelli che sono... Ma dove colpiva? No, io oggi è una trasmissione tecnica, non è una trasmissione che vuole censurare atteggiamenti. Vorrei fare una sorta di compendio tecnico. Io ho elencato, diciamo, il colpo di canna in testa alle prime file e l'inzuppamento nel gabinetto. Questa riga come veniva usata? Qual era la tecnica esatta? Diciamo che era un po' dove coglio, però quando d'estate c'erano i pantaloni corti e soprattutto sulle gambe, perché lì faceva ancora più male, bruciava, insomma. La dava di taglio o di piatto? Di taglio o di piatto? No, di piatto, difatti ne consumava tante. Però devo dire che questa suora era quella che lavava i gabinetti, che ci lavava i calzini, i consulenti, ci faceva il bagno, faceva tutto lei, ci occupava della cancelleria. E io comunque ho un bel ricordo di lei, perché era giusta comunque, non è che picchiava Vandera. Sì, ma la percezione, guardi Devio, scusi, ha colto nel punto. Anch'io allora non vedevo nulla di strano, nulla di rituale. Se ne parlava come fosse qualcosa che apparteneva alla norma. Pensi quanto è cambiato l'atteggiamento. Lei, la suora che la menava con la riga sulle gambe, l'avrà fatto anche male, ma faccia parte comunque dei doveri. Questo è oggi soltanto una trasmissione antropologica, retrospettiva, per far capire come cambia la percezione. Nicola, buongiorno. Buongiorno, sono Nicola da Milano, ho 72 anni, vivevo in un paesino dell'Abruzzo quando andavo alle elementari. Mio padre, quando veniva a parlare con l'insegnante a scuola, chiedeva come andavo, il maestro conosceva mio padre, che era uno che ci teneva a bacchetta per bene, e davanti a tutti gli alunni diceva: mi raccomando Don Caetanino, se sgarro o fa qualcosa di che non va, mena pure. Ora, io sono il primo di altri 6 figli. Mio padre, ma lei fu mai menato, Nicola? Fu mai menato lei? No, il maestro diceva: ma no, Amedeo, non ti preoccupare, ma no, stai tranquillo, che non... Il maestro non ha mai alzato le mani a nessuno. Quindi era controcorrente. Però, scusi, Nicola, è importante la sua testimonianza per capire che c'era un'accettazione da parte delle famiglie, anzi un'istigazione a colpire i figli. Oggi penso che i genitori di questo ragazzo schiaffeggiato saranno lì già con i carri armati sotto la scuola e con la pece e le piume per il professore. Nicola, ricorda che però nella sua generazione, anzi, era stimolato il professore ad alzare le mani, perché poi a casa gli davano la giunta, gli davano il resto. Gabriele, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Io ritorno alle suore, i metodi delle suore. Sì, in questo diciamo che erano specializzate, erano assolutamente un passo sì, avanti rispetto al resto delle persone, chiaro. Pervicacia e fantasia invidiabili. Ecco, vediamo se riesce a darci qualche indicazione importante sulle tecniche e sulle strumentazioni. La tecnica era il pignatello, che è un pugnetto sulla testa dato con le nocche delle dita. Ah, il nocchino, questo... Perugia lo chiamavano il nocchino, sì, chiaro. Regione che vai, nome che trovi. Quindi diciamo con il medio particolarmente, che usciva fuori dall'impugnatura in modo che colpisse come corpo contundente, bravissimo. Il nocchino. Esattamente. Lo mostro davanti alla telecamera, chi può vedermi in questo momento, sto facendo vedere il nocchino o il pignatello, come dalle sue parti. Colpo segreto delle suore, che faceva malissimo ma non lasciava segni. Esattamente, quindi nessuna prova, ma l'effetto era sicuramente garantito. L'altra cosa era quella di girare il braccio dello studente sulla schiena e dargli le sberle sulla testa, in maniera tale che non c'era possibilità di movimento, era impossibile sottrarsi. Spiegato bene questo, perché è importante, questa tecnica, una tecnica dava un duplice dolore. Se lei si divincolava, si disarticolava alla spalla, al braccio, faceva un male cane. E se cercava di evitare i colpi, lei doveva scegliere se era preferibile prendersi gli schiaffi o la slogatura del braccio. C'erano due dolori contrapposti. Esattamente, quindi alla fine facevi la figura del mansueto che aveva capito che aveva sbagliato, in realtà invece stavi evitando di aggiungere dolore su dolore, no? È chiaro, infatti c'era una tecnica psicologica, allora immediatamente creava un atteggiamento remissivo da parte della vittima, che capiva che più si muoveva più si faceva male, quindi si prendeva un po' di schiaffi stando fermo e tutti dicevano, vedi, si è domato, importantissima questa tecnica. Allora Danilo, sentiamo Danilo. Pronto? Mi sente? L'ascolto, certo. Buongiorno, sento una cosa. Io ho due o tre episodi veloci. Allora, sulle primo, tecniche, è importantissima la tecnica. La tecnica, allora, il primo era applicazioni tecniche, anni 70. Il professore, quando tu facevi qualcosa di strano, magari parlavi, lui veniva lì, prendeva il braccio, girava un pizzicotto, sì, ma quelli proprio forti, capito? Che tu, cioè, rimanevi proprio fermo lì e lui girava sempre sto pizzicotto, proprio una cosa bestiale. Ma assomiglia un po', guarda, nella mia memoria liceale, è il torciglione salesiano. Prete ti prendeva le spalle e tu non lo vedevi, ti dava una torta, sì, sempre, diciamo, nella parte delle natiche, perché probabilmente no, questo non lasciava segno. Sui bracci, questo qui, cioè, braccio proprio forte, e tu andavi a casa sempre ammaccato, ecco, così un po'. Ma rimaneva il livido, sì. Poi dopo il parroco che con le chiavi, quando faceva catechismo, veniva lei con le chiavi in testa, le chiavi quelle della sacrestia, quelle era un classico. Le chiavi venivano nascoste all'interno della mano, sicché non si avvertiva subito. L'effetto contundente. Sì. Quando colpiva, apparentemente sembrava una carezza paterna, pastorale, dentro c'era la chiave che colpiva la testa. Un altro, poi, professore di la chiavata matematica, del prete, invece, era un classico che accadeva, diciamo, nelle aree parrocchiali. Prego. Il professore di matematica, invece, faceva proprio a pugni con uno studente, a pugni proprio, sai, un ring. Lui ogni tanto si metteva a vedere cosa fa, cazzo fatti con questo qui, capito? Cioè tipo, sai, un ring, tu stavi lì un attimo, durava un minuto. Era la tecnica del maschio alfa, lui ovviamente educazione fisica, quindi era fisicamente preparato, sfidava il capobranco degli studenti, lo sconfiggeva, vinceva sempre il professore. Era un mio compagno, ma era alto, capito? Era grosso questo, e lui, capito, cioè, lo usava come sacco, non lo so, come, cioè, anche perché non si poteva ribellare il povero ragazzo, quindi doveva soltanto incassare, logicamente. Bene, nostro, abbiamo già avuto un compendio importante in questa prima parte, andiamo avanti nella seconda parte tra poco. Ricordo, a me serve elencare le tecniche, non prendo una posizione, non dico era meglio, era peggio, che schifo, che orrore. Oggi facciamo una trasmissione di servizio, creiamo un ipotetico manuale dell'arte marziale della correzione scolastica nei decenni precedenti. A tra poco. Melog. Papà ti picchia qualche volta? Sì. Come ti picchia? Con la frusta. E tu cosa fai? Io piango. Perché gli meno con la frusta? No, perché con la frusta non è che lo danneggio, ragazzino. Se praticamente gli dante un carcio, gli rompo una costata, invece con la frusta non è che danneggio. Se sente il dolore semplicemente senza danneggiarlo. Perché anche con lo schiaffo basta che lo piglio bene, che il cervello è così, e il ragazzino diventa, a me non mi basta. C'è ragione, esatto. Senta, ma ha ottenuto dei risultati con la frusta? No. A scuola hai mai preso lo schiaffo? Marzo. Chi te l'ha dato il schiaffo? A me. .800240024, trasmissione di documentazione storica sulle tecniche di correzione fisica nelle scuole italiane negli anni antecedenti all'attualità. quello avete sentito è un documentario di Luigi Comencini che andò Rai nel 1970, fu trasmesso. La Frusta era un padre che si vantava di aver messo a punto lo strumento perfetto per la correzione del figlio, che era la frusta, che non creava problemi agli organi interni, però faceva male e correggeva. In linea con questo concetto noi stiamo enumerando e classificando attraverso l'esperienza dei nostri ascoltatori più attempati quelle che erano le tecniche precise per educare colpendo e inferendo dolore. Partiamo dall'episodio dell'altro ieri di una scuola italiana nel Salernitano in cui il professore ha dato uno schiaffone a un ragazzo e si è naturalmente sollevato un coro di giuste, lecite e sacrosante proteste. Michele, buongiorno. No, buongiorno Nicoletti. Allora, la mia esperienza ovviamente riguarda il catechismo, che ricordo con estremo piacere perché noi andavamo a scuola di guerra. Ma perché ha sviluppato poi diciamo una compulsione masochistica? Perché lo ricorda con estremo piacere? Se la picchiavano. Molto, perché era un gioco. E allora gli eserciti contrapposti eravamo noi ragazzini delle elementari e medie, che eravamo tanti e ugualmente cattivi agli educatori catechisti, che erano pochi ma grandi, perché erano diciamo dell'età delle superiori e più o meno università. E vabbè, durante l'anno erano le solite cose, calci, sberle, insomma, ordinaria amministrazione, ma si raggiungeva la cosa più bella quando inizio estate e fine estate si andava a fare la settimana al campo, in montagna. Di notte, certo, chiaramente, camerate da 15-20 ragazzini, naturalmente che ne facciamo di cotte e di crude, e gli educatori dopo un po', insomma, prima un po' di sberloni, poi un po' di ceffoni, ma poi il culmine si raggiungeva con il palo d'Ulisse, cioè raggiunta una certa ora basta, non si poteva più sgarrare perché un poveraccio, tipicamente capro espiatorio, insomma quello che era lì che girava, il primo che veniva preso in mira, veniva preso per l'orecchio e portato al famigerato palo d'Ulisse, che voleva dire... Ah, questo è interessante, il palo d'Ulisse. Palo d'Ulisse, voleva dire che era quello in cui Ulisse si fece legare l'albero della nave per resistere al canto delle sirene. Perché Ulisse era volontario, invece lì tu venivi preso in pigiama così come eri, il campo era montagna, diciamo faceva freschetto, perché comunque era inizio fine estate, e tu passavi la notte in camera con gli educatori, nel bagno, da solo, e dovevi dormire nella boccettina. All'abbiaccio. Ah, pensavo un palo fisico massimo, a cui venivate legati o impalati. No, ah, beh, meno crudele. Però al massimo te ne stavi, diciamo, con la copertina, perché se imploravi dopo un'oretta la copertina arrivava e via, ti facevi la notte. Chiaramente il giorno dopo. Quindi venivate rinchiusi nella doccia dell'educatore e rimanevate lì. Ma la doccia veniva aperta oppure chiusa? Chiaramente chiusa. Ma attenzione, cos'era il bello? Era la mattina. Perché la mattina c'era l'enorme refettorio dove tutti insieme si andava a fare la colazione, più o meno un centinaio di persone, e tu venivi preso direttamente dal palo d'Ulisse, cioè dalla notte, passata in doccia, venivi portato ed esposto al pubblico in pigiama, chiaramente, no? Perché, quindi c'era già una seconda punizione, un'appendice di vergogna, una gogna. Era molto raffinata questa tecnica, perché univa insieme, guardi, l'effetto della punizione corporale, l'effetto della tortura e della reclusione e l'effetto del ludibrio e della gogna. Diciamo, era veramente una tecnica molto raffinata. Massimo, vediamo Massimo. No, la mia esperienza è sicuramente molto, molto più semplice. All'elementare. Ma che il palo d'Ulisse si inventa ogni giorno, ci hanno studiato. Esatto, no, quello che faceva il nostro maestro della terza, quarta e quinta, sostanzialmente chiamava, quando doveva punire qualcuno, chiamava il soggetto vicino alla cattedra, prendeva entrambe le mani, gliele metteva sulle guance, sembrava che dovesse fargli delle carezze, e invece affondava due bei schiaffoni contemporanei. E niente, questa era la punizione. Era quello praticamente il doppio boccatone. Esatto. Sincrono. Io fortunatamente non sono mai capitato. Ho preso forse un singolo schiaffone, non ricordo più perché cosa. Quindi a distanza sembrava una carezza paterna. In realtà era un doppio schiaffone comprimente. Esatto. Che creavano decompressione nelle orecchie, che dava dei mal di testa permanenti per molto tempo, oltre il dolore fisico. Poi le guance rosse, eccetera. Ed era certo. Qui a Milano. Allora lui era un siciliano, adesso non faccio i nomi né niente. Però succedeva questo, erano gli anni terza, quarta e quinta, 63, 64, più o meno quegli anni lì. Sì, erano gli anni in cui si poteva tranquillamente mettere a punto queste raffinate tecniche didattiche, pedagogiche, e nessuno diceva nulla. Invece nelle elementari prima e seconda, che c'era una maestra, lì secondo me non è mai successo. Vedo una radicale assenza di signore, di ascoltatrici. Evidentemente sulle donne, a parte il mio ricordo di Ivana inzuppata nella turca, andavano con la mano più leggera, usano altro tipo di tormento probabilmente. Piacerebbe sapere qual era, diciamo, la controparte femminile di questi supplizi. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, io? Sì, Giuseppe, pronto, buongiorno, racconti senza reticenza. Sì. Perfetto, io ero vittima insieme ai miei due compagni della violenza, perché non so come chiamarla, di una maestra, la quale aveva la mano piena di anelli che io ricordo ancora oggi, che affondavano sulle mie guance. Non ho mai capito il motivo per cui ci prendesse così a bersaglio, addirittura mi tratteneva. Perché lei provava un piacere inenarrabile, indicibile nel picchiarvi, chiaro? No, perché lo faceva? Assolutamente, addirittura facevamo a gara, era una cosa talmente normale quasi, facevamo a gara con questi altri due compagni per chi piangeva più tardi, cioè chi resisteva di più agli sganassi. Vediamo a capire la tecnica. Dunque, vi colpiva con questa mano piena di anelli che erano studiati nella loro conformazione. La scusa era qualsiasi cosa. Ma gli anelli rivolgeva verso l'interno la parte con le pietre dure, diciamo quella più contundente, per colpirvi sì, meglio. Faceva alternava a secondo della gravità. Ah, della andava di dritto di rovescio. Di dritto di rovescio, tutte chiaro. Due, sì, tutte sì. E due, tutte e due. Ed era. È finita la storia. Poi io dicevo, fra l'altro, io lo dicevo a casa e non mi credevano perché era talmente assurda la cosa. Comunque devo dire che era diciamo particolarmente attenta a non lasciarvi segni, quindi era una tecnica ben precisa, perché vi picchiava duramente, vi dava dolore, ma non vi lasciava segni evidenti. Sì. Poi non procurava lesioni permanenti. Cos'è? È la proprietà delle pietre dure. Se lei colpisce con un diamante fa un male terribile, ma probabilmente non fa lividi, probabilmente, non lo so, immagino, ogni pietra avrà la sua caratteristica. Studiava gli anelli lungamente. No, pietre azzurre. Va bene, mi sembra abbiamo tantissime telefonate, mi fermo ancora, prendo fiato, ma devo dire che sto scoprendo dei mondi che nessuno ha mai classificato con questa, diciamo, precisione e scientificità, e quindi ne vado molto fiero. A tra poco. Melog. Avevo una maestra che era bella rossa di capelli, tutte le volte che cannavo qualcosa, Luigi vieni fuori caro, vieni, mi metteva davanti alla lavagna, no? Mi prendeva il ciuffo dietro e mi picchiava la fronte sulla lavagna per tre volte. Avevamo un maestro terribile che ci picchiava, tirate di orecchie ma forti, ci staccava proprio i lobi e schiaffoni, tirate di capelli. Per 5 anni non ci ha fatto alzare dal banco durante l'intervallo, avevamo terrore di lui. Il maestro ci chiedeva le tabelline, chi sbagliava le tabelline prendeva una bacchetta anche bella, bella violenta. Eravamo tutti in fila con la mano aperta. 800240024, questi sono ascoltatori di Melog in una nostra precedente ricerca scientifica sui metodi di coercizione scolastica dei decenni passati, e stiamo mettendo insieme un bel manuale, potrebbe essere la compilazione di una nuova arte marziale, la terribile arte del mantenimento della disciplina in classe, arte naturalmente non più applicabile ai nostri tempi e nelle nostre sensibilità, arte che abbiamo tutti subito, tutti noi che abbiamo più di 40 anni sappiamo esattamente di cosa si tratta, come lo sa esattamente Gabriella. Gabriella, buongiorno. Oh, buongiorno a lei. Che le posso dire? Io avevo un insegnante, una professoressa di italiano che è rimasta nel cuore a tutti, però era di una rigidità che tremevamo quando ci chiamava fuori. E niente, se non sapevamo la poesia, ci prendeva per l'orecchio, la parte alta, e cominciava a stringere e a torcerci l'orecchio fino a farcelo diventare paonazzo, e diceva: benedetta ragazza, possibile mai che questa cosa non l'hai ancora imparata? Era un dolore tremendo, però devo dire che anche se la temevamo, è stata l'insegnante che più ci è rimasta nel cuore, la professoressa. Ecco Gabriella, interessante, due particolari sono interessanti la sua testimonianza. Innanzitutto lei ci ha ricordato quelle che erano le tecniche che si applicavano sulle ragazze, che avevano l'incarnato più delicato, ossa più fragili, meno abituate a sopportare la violenza dello schiaffo, del colpo di riga, del doppio schiaffone, di tutto quello che abbiamo elencato, della chiave in testa. Si usano delle tecniche più raffinate, la torsione dell'orecchio che non lascia segni ma fa un dolore terribile era una di queste. Ma il dato che lei mi conferma è che in realtà si stabiliva una sorta di rapporto di dipendenza con l'insegnante picchiatore. Nessuno lo ricorda con rabbia, anzi tutti dicono che tutto sommato si vede che si instaurava una sorta di senso di colpa nell'alunno, quasi pensava che era giusto, che se le meritava, era grato all'insegnante che lo picchiava, funzionava così? Lui andava poi a lamentarsi a casa perché questa ci faceva questa roba, perché era tutto sommato, sì, rispetto agli altri insegnanti che non facevano di queste cose, lei era la più violenta, però nessuno andava a lamentarsi a casa dicendo: oddio, quella lì, anche perché probabilmente allora mio padre e mia madre mi avrebbero detto: beh, sai, se l'ha fatto, voglio dire, te lo sei meritato, te lo sei meritato. Ma sì, insomma, chissà che cosa, insomma, te le ha tirate fuori, no? Sì, ma c'era un'indiscussa fiducia nel ruolo dell'insegnante, sì, nessuno lo mette, ma nessuno si azzardava a metterlo in dubbio. Non è come oggi che i genitori vanno a contestare un voto, un'interrogazione. Quindi ci stava che l'insegnante in queste maglie larghe usasse anche metodi coercitivi che richiedevano la forza fisica. Ivano, buongiorno. Salve. Io ricordo anno 77, quindi ho 43 anni, ricordo schiaffi delle maestre elementari, e nell'anno delle superiori, quindi anni 90, insulti di un professore in particolare, tipo: vai a raccogliere i pomodori, alle donne vai a cucire la calza, quindi non proprio in linea con quello che lei state raccontando, però... Però vedi, si stava evolvendo il costume e si passava, diciamo, alla tortura psicologica, sapendo che la tortura fisica stava uscendo un po' dalla tolleranza generale. Sì. Quindi si giocava sull'umiliazione psicologica: vai a fare la calza, vai a zappare la terra. Non era bello per in quegli anni, soprattutto per una ragazzina, 15-16 anni, ma una nota: i genitori erano totalmente a favore dell'insegnante, sempre. Ricordo che non mai contestavano gli insegnanti, né i metodi, né gli insulti, perché eri in difetto, non studiavi, e quindi... Ma è chiaro, diciamo, che essendo tollerato il metodo, c'è una mutazione, uno slittamento della tolleranza rispetto alcuni atteggiamenti e comportamenti arcaici. Ancora, diciamo, erano delle frange arcaiche che permanevano nella percezione generale. I genitori probabilmente appartenevano alla mia generazione, abituati a essere menati, pizzicati, calciati, umiliati, inzuppati nei cessi, non trovavano nulla di strano, anzi, cioè, vedi, rispetto ai miei tempi, che tornavamo a casa con un buco in testa, che ci dava, succedeva questo, la botta in testa la maestra, e nessuno diceva nulla, in fondo tutto sommato che ti dice, ti insulta. Lidia, buongiorno. Buongiorno, allora io con un insegnante, parlo delle elementari, femmina, una signora, che ci vessava tutti più o meno allo stesso modo, insomma, appena facevamo qualcosa che non andava bene c'era il classico scappellotto su coppino, e poi l'ha presa con l'orecchio e l'ha messa dietro la lavagna, perché una volta la lavagna aveva il piedestallo con la lavagna che girava su se stessa, davanti era diciamo a righe, dietro era a quadretti, per intenderci, quindi proprio un'umiliazione totale. Quindi diciamo questa è una variante della torsione dell'orecchio, non era più statica, diventava dinamica, con trascinamento e umiliazione. Esatto. E ricordo anche una volta, per parlare anche di magari una cosa leggermente diversa, ci si alzava all'inizio della lezione a dire la preghiera, tutti di fianco al banco. E mi ricordo una mattina che ero piccolissima, ero forse in prima, mi scappava la pipì, ho alzato la mano per andare a far pipì, ma c'era la preghiera, no, la pipì non la fai. Mi sono fatta la pipì addosso. Sì. E quindi tripla umiliazione, perché poi sono stata presa, e se andava a quell'epoca c'erano i bagni, le bidelle avevano tutte le mutandine di ricambio per i bambini, quindi lavata, pulita, eccetera. Però umiliante, cioè proprio anche quello è un modo come un altro proprio per distruggerti psicologicamente. Tutti pregavano, Ave Maria piena di grazia, lei se la faceva sotto e tutti ridevano, chiaramente. Certo, terribile, questo diciamo l'avrà provocato una crisi religiosa che si porterà dietro ancora alla sua età, immagino. Lo so, poi è comprensibile. Se c'è un Padre Eterno avrà comprensione. Esatto, ha fatto qualcosa, ha fatto anche questa cosa qui, no, scherzo. Vabbè, grazie Francesco. Francesco, sentiamo ancora Francesco. Eccomi, pronto? Francesco. Buongiorno Nicoletti. Il suo contributo a questa enciclopedia delle torture scolastiche. Il mio ricordo è questo. Prima elementare, io sono andato a scuola a 5 anni, quindi ai tempi si andava dalle suore, chi aveva 5 anni evidentemente andava a scuola dalle suore, e io sono mancino. Sì, era una fucina di inventiva e di fantasmagorica immaginazione. Le suore nelle torture fisiche verso i bambini erano perfette, devo dire. Sì, sì devo dire, povera suora, non era una tortura fisica, però me la ricordo. No, per loro cioè... era una maniera per far capire, in realtà una sorta di memento mori paragonabile all'età del bambino. Prego. Ho 62 anni, me lo ricordo, quindi. E quindi, essendo io mancino, appena se ne sono accorto, velocemente mi hanno legato la mano sinistra dietro la spalliera dello sgabellino. Certo, quindi la mano del diavolo. Scrivevo con la destra e il danno e la beffa era che scrivendo tutto storto c'era il calamaio. Aveva altre botte, mi sembra chiarissimo, la mano del diavolo legata e altre botte. Ringrazio Gianmarco Ferronato, Alessandro Chiappini, Gloria Guerrera e Fabrizio Intonti che per tutta questa settimana mi sono stati vicino permettendomi di andare in onda, e già mi sembra tantissimo. Alla prossima. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.